sono stato a Sudafrica per Confederations, sì. Ho visto tutto e adesso penso che sarà fantastico in Sudafrica. Forse sarà saranno dei problemi, allora ogni mondiale ha dei problemi, con un eccetto Germania, perché sono tedeschi, allora nessun problema per loro, sempre. A Sudafrica la gente è molto gentile, molto, molto divertente, molto fun. Sì. E il calcio per loro non sono, non è un aspetta, devo pensare qui, perché il calcio è, non è la vita, sì, come in Italia, come per i tifosi in Italia, ma è un grande, come si dice in italiano, gioia. Il calcio è de gioia lì. Ho capito. E penso che il mondiale sarà così. Grande, molto molto gioia. Per gli Stati Uniti sarà difficile, ma penso forse quarterfinals. Sì, spero per noi, spero per io, perché per me, perché sono un giornalista, allora posso fare molto, posso fare di più. Sì, per noi sarà difficile ripetere quello che è stato l'ultimo mondiale, però vedremo. Ma aspetta, perché penso che l'Italia ha dei problemi. Immagino. Adesso vediamo, forse l'Azzurri deve avere un italiano americano per fare dei gol. Dici? Sì. Giuseppe Rossi, eh beh, sì, lui potrebbe essere importante. Lui è americano, eh? Lui sì, lui è nato a Lugano. Ha fatto bene in Sudafrica lui. Sì, molto, molto. Un bravo giocatore. Bravo giocatore lui. Peccato che non giochi poi nel, sì, campionato italiano. Sì, è vero, è vero. Vediamo, perché Villarreal non è molto forte quest'anno, penso. Perché non ha fatto niente quando tutti in Spagna hanno comprato. Ha comprato, non lo so, cacato tutti i grandi giocatori, allora vediamo. Ok, perfetto, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a te.